sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Esplosioni nel centro di Kabul, sotto attacco l'ambasciata americana. Berlusconi a Bruxelles, l'opposizione rovina l'Italia per rovinare me. La Commissione europea intanto fa sapere di non aver chiesto misure aggiuntive al nostro paese. L'analisi dell'OCSE, l'Italia spende poco per la scuola, in Europa fanno peggio solo Slovacchia e Repubblica Ceca. Champions League, primo esame a Barcellona per il Milan, ma senza Ibrahimovic. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Fra poco parleremo del viaggio di Berlusconi a Bruxelles per rassicurare sulla situazione economico-finanziaria del nostro paese. Prima il punto su quanto sta accadendo a Kabul, perché la situazione è ancora molto confusa. Facciamo dunque il punto in diretta con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Il quartiere generale della NATO, dove si trovano anche le ambasciate occidentali, è stato attaccato poco dopo le 13.30, ora locale, le 11 in Italia, da un comando di guerriglieri afghani. Gli scontri a fuoco sono ancora in corso, la situazione ancora non è chiara, e gli scontri sono in corso anche nei pressi dell'ambasciata americana, che secondo la CNN sarebbe sotto attacco. In un SMS inviato pochi minuti prima dell'azione alla France Press da parte del portavoce talebano Zabiullah Mujahid, si indicavano come obiettivi un ministero e gli uffici dei servizi segreti stranieri afghani a Kabul. Nel quartiere generale della NATO sono state udite almeno 6 esplosioni, forse opera di kamikaze, che hanno provocato almeno 4 feriti tra i civili, mentre secondo le autorità afghane in questo momento sarebbero 5 gli assalitori muniti di mitra, lanciarazzi e cinture esplosive. Alcuni testimoni riferiscono poi di un razzo caduto sempre nel distretto delle ambasciate, e anche la rappresentanza italiana si trova all'interno di quest'area presa di mira dagli assalitori, ma la sua sede non sarebbe per il momento direttamente coinvolta. L'unità di crisi della Farnesina è comunque costantemente in contatto con l'ambasciata per seguire la situazione. Per il momento è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. E poco fa le parole a Bruxelles di Berlusconi, un viaggio il suo per rassicurare le istituzioni europee sulla nostra situazione finanziaria. Il Presidente del Consiglio non ha risparmiato critiche all'opposizione. Ci colleghiamo con Bruxelles, con il collega del Sole 24 ore, Gerardo Pelosi. Buongiorno Gerardo. Buongiorno a voi. Allora, Gerardo, in Europa, sì. Sì, prima facciamo sentire un istante le parole di Berlusconi. In Italia in questo momento assistiamo ad un paradosso. L'opposizione, che pur condividendo questo obiettivo del pareggio di bilancio e pur condividendo di inserire della norma sul deficit nella Costituzione, critica la manovra con un unico desiderio: dare una spallata al governo, senza rendersi conto che in questo modo darebbe una spallata all'Italia. Ecco Gerardo, queste alcune delle dichiarazioni di Berlusconi poco fa, raccontaci allora anche tutto il resto. Ma questo viaggio in Europa, a Bruxelles adesso e in pomeriggio a Strasburgo del Presidente del Consiglio, nel giorno in cui Berlusconi avrebbe dovuto incontrare a Palazzo Chigi i giudici di Napoli sul caso Tarantini, è partito in sordina a Bruxelles, in un'atmosfera abbastanza serena e con elogi reciproci con il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Herman Van Rompuy. Un colloquio incentrato sulla manovra, una manovra che, ha detto Berlusconi, verrà approvata domani con il voto di fiducia e con saldi superiori a quelli concordati con la BCE. Ma il piatto forte di questa trasferta europea di Berlusconi è previsto per il pomeriggio, è un piatto forse più indigesto, è quello che si prepara proprio a Strasburgo, all'Europarlamento, dove Berlusconi dovrà incontrare il Presidente della Commissione Barroso, e dove già ieri una serie di critiche sono state avanzate da parte dell'opposizione, e oggi il Presidente dei Socialisti Europei, Martin Schulz, che nel 2003 era stato accusato. Sì. Gerardo, scusami, torniamo un attimo sulle parole di Berlusconi, ce le vuoi riassumere velocemente? Certo. Sulla manovra praticamente Berlusconi ha detto che, pur condividendo l'obiettivo del pareggio di bilancio, l'opposizione critica la manovra con l'unico desiderio di dare una spallata al governo e senza capire che danno una spallata diciamo all'Italia, rovinano l'immagine del paese. E il Presidente del Consiglio ha anche detto una cosa importante sulle pensioni, e cioè che l'Europa dovrebbe in un certo senso dare indicazioni a riguardo ai governi. I governi sarebbero felici di aumentare l'età pensionabile, perché a quel punto obbligati da un vincolo esterno. Intanto notizia di agenzia di poco fa, sempre il commissario, in questo caso il commissario europeo agli affari economici, ha precisato che la Commissione europea non ha chiesto alcuna manovra o misura aggiuntiva all'Italia, che in questo momento sta già lavorando per approvare un pacchetto ambizioso che ha come obiettivo, ambizioso lo stesso termine che ha usato Van Rompuy, esatto, che ha come obiettivo appunto il pareggio di bilancio. Ma ha aggiunto anche è cruciale che venga applicato. In effetti ieri sono state un po' enfatizzate le decisioni di Bruxelles sulla manovra aggiuntiva. Grazie a Gerardo Pelosi del Sole 24 Ore da Bruxelles. E in mattinata la memoria difensiva di Berlusconi, di cui parlavamo poco fa, è arrivata in procura a Napoli, procura che fa sapere che indicherà domani a Berlusconi un ventaglio di date per l'interrogatorio in qualità di persona offesa nell'ambito dell'inchiesta ai suoi danni. Nel caso di un rifiuto a farsi ascoltare, i PM avvierebbero la procedura per l'accompagnamento coatto del testimone, in questo caso appunto Berlusconi. Ma sentiamo il procuratore capo di Napoli, Lepore, al microfono di Alessandro Milan. È una memoria difensiva o quantomeno delle dichiarazioni, ma non un memoriale. Questo basta secondo lei? Cioè basta per dire non c'è bisogno di un faccia a faccia? Lì spiego tutta la vicenda? Leggere cosa ci sarà scritto in questa memoria difensiva e quindi tenerne conto ai fini processuali. Come dichiarazioni della parte lesa, in genere in un processo soprattutto di estorsione deve essere sentita la parte lesa, in questo caso in particolare, perché abbiamo quasi una cosa assurda, l'accusa, cioè noi abbiamo elementi per ritenere che ci sia un'estorsione e la vittima nega l'estorsione, che naturalmente dobbiamo sapere esattamente come sono andate le cose e quali sono i particolari. Ma non basta appunto la memoria difensiva, voglio dire? Sarebbe una cosa un po' unilaterale, perché ecco perché bisogna esaminare, valutare, perché ci sono anche delle domande che dobbiamo dei fatti specifici che bisogna contestare. Berlusconi dunque a Bruxelles per illustrare la manovra su cui poco fa è stata posta la fiducia. In diretta Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così come da calendario il governo ha posto poco fa la fiducia sul testo della manovra che ha ricevuto il via libera della Commissione Bilancio di Montecitorio. Si voterà domani a partire dalle 13 sul maxi emendamento, l'intero provvedimento sarà quindi approvato in serata. Dopo la manovra non ci dovrebbe essere necessità di ulteriori interventi per raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013, ha spiegato intanto in aula il sottosegretario all'economia Alberto Giorgetti. I nodi tuttavia che restano da sciogliere per l'esecutivo sono almeno due: il contenimento dei tagli agli enti locali e il rilancio della crescita. Sul primo punto i presidenti di regione, in assenza di risposte dall'esecutivo, hanno annunciato che giovedì consegneranno i contratti firmati per il trasporto pubblico su ferro e su gomma. Quanto ai servizi educativi, gli assessori di molti comuni chiedono ai ministri Tremonti e Gelmini certezze su risorse economiche ed umane per garantire l'esistenza e la qualità di nidi e scuole dell'infanzia. Infine il capitolo sviluppo, dal Ministero dell'Economia confermano, dopo la manovra vi sarà un focus voluto da Tremonti, base di partenza la valorizzazione del patrimonio pubblico e la dismissione delle utility. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, e andiamo invece a parlare di borse, perché anche oggi vanno giù. Facciamo il punto con Deborah Rosciani. Piera, per la verità vanno su e giù, perché stamattina, dopo i forti ribassi di ieri, le borse erano partite di buona lena, tutte all'insegna del rimbalzo, poi lo hanno perso tutto alle 10, sono tornate a scendere. Parigi ancora subiva vendite per 2,5 punti sul listino sul CAC 40, poi di nuovo tutte quante su. Adesso c'è una situazione estremamente variegata. Parigi scende ancora di un punto, Francoforte positiva per lo 0,26%, Londra perde lo 0,68%, Milano guadagna lo 0,88%, questo per darti un po' il quadro della situazione che stiamo affrontando. Intanto perché scende Parigi? Perché sono di nuovo a picco i titoli bancari. Oggi subisce particolarmente lo sfavore del mercato BNP Paribas, che secondo il Wall Street Journal avrebbe problemi di liquidità. Fondi monetari americani si sarebbero rifiutati di prestare capitali alla banca. La banca ha smentito seccamente recente, ma il titolo ancora perde molto terreno. Milano invece vede il forte rimbalzo dei titoli bancari: Unicredit più 4,74, Popolare di Milano più 4,69, UbiBanca più 4, Intesa più 4, quindi Milano un po' meglio, anche dopo l'esito delle aste del Tesoro previste per questa mattina. Gli investitori hanno chiesto al Tesoro italiano una remunerazione più alta, ma in ogni caso le aste sono riuscite. Il Tesoro stamattina ha offerto in asta BTP a 5 anni per 4 miliardi. Il riconoscimento, il rendimento che è stato dovuto attribuire è stato del 5-6% ai massimi dall'introduzione appunto dell'euro. E poi ci sono state altre due aste di BTP a 10 anni e a 15 anni. Anche in questo caso i rendimenti si sono orientati intorno al 5,5%, ma in ogni caso il mercato ha trovato un po' di rasserenamento appunto rispetto a questa situazione, anche dopo le dichiarazioni della Cina, che ha detto di essere pronta ad acquistare titoli di Stato italiani. Però lo spread viaggia ancora a 400 punti base, siamo ai livelli massimi d'agosto, da quando la Banca Centrale Europea ha deciso di cominciare a comprare appunto titoli del debito italiano. Pierre, grazie a Deborah Rosciani. E invece adesso ci colleghiamo con Francoforte, dove c'è il Salone dell'Auto, perché stamattina ci sono state le parole dell'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne. Allora, con il collega del Sole 24 Ore Andrea Malan, sentiamo cosa ha detto. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Sergio Marchionne ha appena parlato nuovamente in occasione della presentazione della nuova Panda, e in effetti i temi dell'auto si intrecciano con quelli della crisi. Marchionne ha detto di non essere preoccupato del titolo Fiat ai minimi da un paio d'anni. Sul discorso dell'acquisto di titoli italiani da parte della Cina ha detto che da un lato è un segnale positivo che i cinesi siano disposti a comprarli, certo non è un bel messaggio il fatto che siamo dovuti andare appunto a cercare anche acquirenti cinesi. Per quanto riguarda l'auto, appunto, Marchionne, come del resto la maggior parte dei suoi colleghi, è molto prudente sul 2011-2012, sulla congiuntura, anche per il possibile impatto appunto della crisi finanziaria, e ha riconfermato che per quanto riguarda la decisione se produrre o meno il SUV Alfa e Jeep a Mirafiori verrà presa entro qualche settimana, sia in relazione al tasso di cambio euro-dollaro, che peraltro si è riportato su termini più favorevoli, che per quanto riguarda le dimensioni del mercato che è in corso di analisi. Una decisione quindi dovrebbe arrivare entro poche settimane. Esplosioni nel centro di Kabul, sotto attacco l'ambasciata americana. Berlusconi a Bruxelles, l'opposizione rovina l'Italia per rovinare me. Secondo la Commissione non è stata chiesta all'Italia alcuna misura aggiuntiva. La Procura di Napoli fa sapere che potrebbe chiedere l'accompagnamento coatto di Berlusconi se non si presenterà dai giudici per testimoniare sul caso Tarantini. E ripartiamo parlando di calcio. Come sapete, oggi l'avventura Champions comincia decisamente male, tra l'altro, per il Milan. In studio qui con me Dario Ceccarelli. Sì, buongiorno Piera. Beh, male, diciamo che la notizia che preoccupa i tifosi del Milan è la mancanza di Ibrahimovic, la punta di diamante rossoneri. Si è fatto male, lesione alla coscia destra e stop probabile di 4 mesi, che pregiudica quindi anche la prossima partita contro il Napoli in campionato. Ma intanto la prima tegola è per stasera, anche se l'allenatore rossonero Allegri minimizza pensando di sostituirlo con Pato. Andare in campo con eccessive preoccupazioni ci aiuta solamente a far male. Ibrahimovic è un campione, l'ha dimostrato nella sua carriera e quest'anno al Milan. È normale che perderemo in fisicità, però magari acquisteremo un'altra qualità con il giocatore che lo sostituirà. Ecco. I maligni dicono anche che Ibrahimovic salta questo match per evitare di incontrare i suoi ex compagni, che con Ibra, per le sue arie da divo, non hanno mai legato. Lo svedese infatti all'epoca era costato 70 milioni e insomma voleva essere considerato alla stregua di Messi, è un divo, e questo per Guardiola, l'allenatore del Barca, uomo che non ama invece divismi, non era accettabile. Comunque Guardiola, almeno nella forma, gli riconosce l'onore delle armi. Sentiamo Guardiola. Io sempre penso che questo lavoro, il calcio, appartiene ai calciatori, non appartiene a nessun altro, nemmeno agli allenatori, nemmeno ai giornalisti. La gente paga un biglietto, la sua tessera, per andare a vedere i grandi calciatori. Ibrahimovic è uno di quelli. Mi spiace tanto che non possa essere qua, perché sempre noi preferiamo giocare con tutti i grandi campioni, noi sappiamo che lui lo è, perché l'abbiamo conosciuto qua. Sicuro che il ritorno ci sarà e gli auguriamo un pronto recupero. Comunque, al di là di Ibrahimovic, la paura dei tifosi del Milan è che il Milan non sia pronto per sostenere la forza d'urto della miglior squadra del mondo e che così finisca male. Si vedrà. Fortunatamente siamo all'inizio e anche una sconfitta non pregiudica il futuro percorso del Milan in Champions. Certo, il prestigio un po' ne rimarrebbe scalfito. Grazie a Dario Ceccarelli. Torniamo invece alla pagina politica, perché oggi è il giorno dell'autodifesa dell'ex braccio destro di Giulio Tremonti, Marco Milanese, davanti alla Giunta per le autorizzazioni della Camera. L'Aula della Camera si esprimerà giovedì 22 settembre sulla richiesta di arresto nei confronti di Marco Milanese, il deputato del PDL, ex braccio destro del ministro Tremonti. Oggi sarà ascoltato dalla Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio, che entro venerdì dovrebbe esprimere il suo parere. Milanese è accusato di corruzione nell'inchiesta sulla cosiddetta P4, l'associazione a delinquere, che secondo la Procura di Napoli avrebbe pilotato appalti e nomine. Ieri il deputato del PDL ha denunciato per calunnia il suo principale accusatore, l'imprenditore napoletano Paolo Viscione, una mossa inattesa che potrebbe costringere la Giunta a chiedere altro tempo per approfondire il caso. Sempre ieri la Giunta ha ricevuto anche nuovi atti dell'inchiesta, fra questi ci sono nuove intercettazioni telefoniche, le registrazioni degli accessi di Milanese alle sue cassette di sicurezza e il verbale dell'interrogatorio del generale Cosimo D'Arrigo. Agli inquirenti l'ex comandante della Guardia di Finanza avrebbe detto che il grande potere attribuito da Tremonti a Milanese gli avrebbe permesso di creare qualche problema di ordine pratico e un complessivo rallentamento dell'attività delle Fiamme Gialle. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Proprio nei giorni in cui i nostri ragazzi tornano sui banchi, arrivano impietosi i dati dell'OCSE nel rapporto sull'educazione. L'Italia investe poco nell'istruzione, paga male i prof e fa stare troppe ore a scuola. Italia in coda tra i paesi industrializzati per la spesa nella scuola, gli stipendi degli insegnanti e il numero di laureati e diplomati, ma i primi posti per le ore passate sui banchi e anche per le ridotte dimensioni delle classi, perlomeno sulla base del rapporto allievi-insegnanti. È la fotografia scattata dall'OCSE nello studio annuale sui sistemi di istruzione dei principali paesi del globo. Nel 2008 l'Italia dedicava solo il 4,8% del PIL all'istruzione, 1,3 punti percentuali sotto la media OCSE, finendo così al 29esimo posto sui 34 paesi che aderiscono all'organizzazione. Tra il 2000 e il 2008 la spesa per la scuola primaria e secondaria in Italia è aumentata solo del 6%, contro la media OCSE del 34%, e si tratta del penultimo incremento tra i paesi avanzati. Altro capitolo, gli stipendi degli insegnanti, che sono tutti inferiori alla media OCSE. Ci vogliono 35 anni per un prof delle medie per arrivare al top del salario, contro i 24 della media OCSE. Quanto alla scarsità di laureati e diplomati, solo il 28% dei giovani italiani tra i 25 e i 34 anni hanno una laurea, contro i 37 della media OCSE, e siamo anche qui agli ultimi posti. Giuliana Licini da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Quinta Repubblica è una repubblica delle banane, si chiede oggi in prima pagina il quotidiano Le Monde, alla luce dell'ennesimo scandalo che vede vertici politici francesi invischiati in trame oscure con paesi africani gravitanti nell'orbita delle sue ex colonie. Robert Bourgeois, 66 anni, un intermediario che aveva il ruolo di Monsieur Africa all'Eliseo ed è oggi un consigliere solo informale di Nicolas Sarkozy, ne ha detti di tutti i colori su molti suoi ex datori di lavoro, a cominciare dall'ex presidente Chirac e dal suo delfino, l'ex premier Dominique de Villepin. Anche Jean-Marie Le Pen, l'ex leader del Fronte Nazionale di estrema destra, avrebbe finanziato la sua campagna presidenziale dell'88 con i soldi dell'ex presidente del Gabon. Suscitano preoccupazione le dichiarazioni a Tripoli del presidente del Consiglio Nazionale di Transizione Mustafa Abdel Jalil. La Sharia, la legge coranica, sarà la principale fonte della legislazione nella Libia del dopo Gheddafi, ha dichiarato nel suo primo discorso Tripoli in Piazza dei Martiri, l'ex Piazza Verde, Mustafa Abdul Jalil, leader del Consiglio Nazionale Transitorio, aggiungendo che comunque la Libia seguirà un Islam moderato, respingendo ogni estremismo. Questo riferimento alla Sharia, al Corano, è una novità e dobbiamo preoccuparci? Non è una cosa nuova, perché è già contenuta in una bozza di progetto di Costituzione approvata anche dall'Italia e da altri paesi occidentali. Jalil inoltre ha definito la Sharia principale fonte del diritto, ma non l'unica. Su questo punto c'è una sostanziale differenza. In quasi tutti i paesi del mondo arabo musulmano, tranne per esempio la Turchia o la Tunisia, la legge coranica appare nella Costituzione il pilastro della legislazione, che poi lo sia effettivamente un altro discorso. Sono le monarchie conservatrici del Golfo, le teocrazie come quella iraniana, dove appare come l'unica fonte di diritto. Gli altri stati musulmani modulano le leggi in base a chi governa e si ricorre alla Sharia soprattutto nel diritto di famiglia e quando fa comodo per ragioni di controllo politico e sociale. Una cosa però è quasi certa: nella Libia del dopo Gheddafi l'Islam avrà un ruolo maggiore. La lotta contro il Ra'is è stata condotta da comandi militari di provata fede islamica e i fratelli musulmani guadagneranno terreno per la loro capacità di organizzazione e penetrazione sociale. I Mubarak, i Ben Ali, Gheddafi e forse un domani anche Assad in Siria sono caduti travolti dai loro stessi popoli, lasciando un vuoto politico che inevitabilmente sarà riempito anche da movimenti di ispirazione islamica. Ed era il commento di Alberto Negri del Sole 24 Ore. Veniamo ora invece all'incidente ieri nella fabbrica di fuochi d'artificio nel Frusinate. Da questa mattina sono in corso i sopralluoghi per mettere in sicurezza l'area in cui ieri è scoppiato l'incendio, in cui sono morte, come sapete, 6 persone. Un'azienda, quella di Arpino, in provincia di Frosinone, che era in regola con le misure di sicurezza. Ma quali sono le cause di incidenti simili? Barbara D'Amico lo ha chiesto ad Antonio Collà, consulente giudiziario, esperto di esplosivi e pirotecnica. In genere, guardi, è sempre per errore umano che capitano questi incidenti, perché i fuochi artificiali non esplodono mai da sole, ad eccezione che in un locale non si tengono gli artifici di quarta e quinta categoria, che non sono compatibili tra loro perché emanano un gas. Il corpo umano contiene una carica elettrostatica e quindi prima di entrare in un locale di esplosivi bisogna toccare del metallo al fine di scaricare questa propria carica elettrostatica, altrimenti toccando un fuoco artificiale si dà una scarica elettrica che provoca un'esplosione a catena di tutti gli artifici. In genere le fabbriche di fuochi d'artificio sono in maggioranza a conduzione familiare e non sempre sono in regola con tutte le varie misure di sicurezza previste. Gli addetti dovrebbero avere una conoscenza tecnica, fare dei corsi di formazione. È sempre l'errore umano, è sempre l'uomo che li innesta. Ed era l'ultima notizia di questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.